Il terzo anello. Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert. Traduzione di Giovanni Raboni. A distrarre Federico arrivò una lettera del notaio che annunciava l'invio di 15.000 franchi per il giorno successivo. Per rimediare alla sua negligenza verso Delorier, andò subito a comunicargli la buona notizia. Delorier vedeva a portata di mano il suo antico sogno. Essere redattore capo, avere cioè la gioia inesprimibile di dirigere gli altri, di tagliare selvaggiamente i loro scritti, di ordinare o rifiutare articoli. Gli occhi gli scintillavano dietro gli occhiali, si stava esaltando e beveva un bicchierino dopo l'altro come un automa. «Bisognerà che tu dia un pranzo tutte le settimane. È indispensabile, anche se dovessi spenderci metà della tua rendita». A Federico sembrava, ascoltandolo, di ringiovanire, come uno che, dopo essere rimasto a lungo dentro una stanza, viene trasportato alla riaperta. Quell'entusiasmo lo stava conquistando. Il giorno dopo, appena sveglio, gli arrivò per posta un vaglia bancario di 15.000 franchi. Quel pezzetto di carta equivaleva, gli venne in mente, a 15 sacchi d'argento. E Federico si disse che con una somma simile avrebbe potuto, in primo luogo, mantenere la carrozza per 3 anni invece di venderla, come ben presto sarebbe stato costretto a fare, oppure comprarsi 2 belle armature incrostate d'oro che aveva visto sul Quai Voltaire, e in più una quantità di altre cose, quadri, libri e chissà quanti mazzi di fiori, quanti regali per Madame Arnoux. Alla fine, qualsiasi cosa era meglio che arrischiare, che andare a perdere tanto denaro per quel giornale. All'improvviso Federico ebbe la grande sorpresa di vedere entrare Arnoux, il quale si sedette pesantemente sul bordo del letto con l'aria dell'uomo accasciato. «Ma cosa succede?» «Sono perduto». Doveva versare quel giorno stesso nelle mani del notaio Beauminet la somma di 18.000 franchi prestatagli da un certo Van Leroy. «È un disastro inspiegabile, tanto più che l'avevo garantito con un'ipoteca, una cosa tranquilla per lui. Ma adesso minaccia un precetto se non lo pago subito, questo pomeriggio. E allora? Allora è semplicissimo. Farà espropriare il mio immobile. Basta che mettan fuori l'avviso e sono rovinato. Se trovassi qualcuno che mi anticipa quella somma maledetta, subentrerebbe al posto di Van Leroy e io sarei salvo. Lei non l'avrebbe per caso?» «Purtroppo no, caro amico.» Ma quel rifiuto gli era penoso. Aggiunse: «Ma come, non riesce a trovare nessun altro che sia in grado?» «Nessuno! Pensare che fra 8 giorni incasserò certi denari. Sono creditore di forse 50.000 franchi alla fine del mese. E non potrebbe pregare questi tizi di anticiparle un...» «Sì, figuriamoci. Ma non ha in mano una copertura qualsiasi, delle cambiali?» «Niente.» «Che fare?» disse Federico. «È proprio quello che vorrei sapere», replicò Arnoux. Tacque e andava su e giù per la stanza come un leone in gabbia. «Non è per me, santo cielo, ma per i miei bambini, per quella poverina di mia moglie. Ebbene, sarò forte. Ci metterò sopra una pietra e andrò a cercare fortuna. Ah, non so dove.» «Ma non è possibile!» esclamò Federico. Arnoux rispose calmissimo: «E come vuol che faccia a vivere a Parigi, ormai?» Seguì un lungo silenzio. Federico ricominciò: «E quando potrebbe restituirlo quel denaro? Oh, non che lui l'avesse, al contrario, ma niente gli impediva di rivolgersi a qualche amico, di fare dei tentativi.» E chiamò il domestico per prepararsi a uscire. Arnoux lo ringraziava. Federico restò in casa a rivolger maledizione a Delorier. Avrebbe voluto mantenere la parola e nello stesso tempo essere utile a Arnoux. «E se mi rivolgessi ad Ambreuse? Ma con che pretesto posso chiedergli del denaro? Sono io, al contrario, che dovrei portargliene per le azioni del carbon fossile. Ah, vada al diavolo con le sue azioni. Non mi sono mica impegnato.» E Federico si congratulava con se stesso per la sua indipendenza, come se avesse rifiutato un favore al banchiere. Andò a passeggio sul boulevard e pranzò da solo al ristorante. Poi, per distrarsi, andò a sentire un atto al vaudeville. ma i suoi biglietti di banca gli pesavano, come se li avesse rubati. Non gli sarebbe spiaciuto perderli. Tornato a casa, trovò una lettera del seguente tenore. «Nessuna novità? Mia moglie si unisce a me, caro amico, nella speranza, eccetera, eccetera, il suo è uno svolazzo. Sua moglie, e mi prega». Nello stesso istante compar Vernou, per sapere se avesse trovato l'urgentissima somma. «Eccola, prenda», disse Federico. 24 ore dopo rispondeva a Delorier. «Non m'è arrivato niente». L'avvocato tornò per 3 giorni di seguito. Lo spingeva a scrivere al notaio, s'offerse persino di andare alle Havre. «No, è inutile, ci vado io». Finita la settimana, Federico chiese timidamente al signor Arnoux i suoi 15.000 franchi. Arnoux rinviò a domani, poi a dopodomani. Federico si fidava uscire solo a notte tarda, nel terrore d'essere sorpreso da Delorier. Una sera urtò qualcuno all'angolo della Madeleine. Era lui. «Ah, vado a cercarli», disse Federico. E Delorier lo accompagnò sino al portone di una casa in Faubourg Poissonnière. «Aspettami». Aspettò. Finalmente, dopo 43 minuti, Federico venne fuori con Arnoux e gli fece segno di pazientare ancora un po'. Il mercante, con molta disinvoltura, disse che per il momento, non essendosi verificati i previsti recuperi, non poteva restituire i 15.000 franchi. «Non ne avrà mica bisogno, no?» A questo punto Delorier abbordò Federico e, tirandolo da una parte, «Dimmi la verità, li hai o non li hai?» «Ebbene no», disse Federico. «Li ho perduti». «Perduti? E come?» «Al gioco!» Arrivato a casa, trovò nel suo studio una lettera di 8 pagine su carta azzurra patinata, firmata Rosanette. Cominciava con dei rimproveri amichevoli. «Che n'è di lei, carissimo? Io mi annoio!» Ma la scrittura era così abominevole che Federico stava per buttar via lettera, busta e tutto, quando gli cadde l'occhio sul post-scriptum. «Conto su di lei domani per portarmi alle corse». «Perché non dovrei andarci?» si disse alla fine. E se Madame Arnoux dovesse saperlo? Beh, che lo sappia pure, tanto meglio, e che ne sia gelosa. L'indomani, la marescialla, già pronta, lo stava aspettando. «Com'è stato gentile», gli disse, fissandolo con i suoi occhi insieme teneri e gai. Annodato il nastro del cappellino, si sedette sul divano e vi restava silenziosa. «Andiamo?» disse Federico. Lei diede un'occhiata alla pendola. «Oh no, non prima dell'1:30». Come se fosse quello un argine interiore alla sua incertezza. Finalmente, suonata l'ora, «Bene, chérie, possiamo andare!» I cagnolini le abbaiavano intorno. «Possiamo portare anche loro, no?» Fu Federico a tenerli in braccio fino alla carrozza. Era una berlina presa a nolo assieme ai due cavalli e al conducente. Sul sedile posteriore Federico aveva piazzato il suo domestico. La marescialla parve soddisfatta di quelle attenzioni, poi, una volta seduta, gli chiese se fosse stato di recente a casa di Arnoux. «Sarà un mese», disse Federico. «Io l'ho incontrato l'altro ieri. Anzi, sarebbe venuto anche lui oggi. Ma ha dei fastidi di ogni genere, un processo, non so cos'altro. Che bel tipo!» «Proprio un bel tipo», disse Federico. Poi, con aria indifferente, «A proposito, lo vede ancora quel... come diavolo si chiama quell'ex cantante? Del Mar!» Lei rispose seccamente, «No, è finita». La rottura era certa, dunque. Federico ne trasse qualche speranza. «Che amore di ditini!» disse Federico prendendole dolcemente la mano sinistra, ornata da un braccialetto d'oro a forma di catenella. «Com'è grazioso questo! Da dove arriva?» «Oh, è un pezzo che ce l'ho!» disse la marescialla. Il giovane non fece obiezioni a quella risposta ipocrita. Era meglio approfittare della situazione. Sempre tenendole il polso, vi mise sopra, fra manica e guanto, le labbra. «La smetta, ci vedranno!» «E se anche fosse...» Lasciando sulla destra il Trocadéro, attraversarono il ponte di Jena e si fermarono finalmente in mezzo al campo di Marte, accanto alle altre carrozze già sistemate nell'ippodromo. Gli spalti d'erba erano gremiti di gente da poco. Affacciati al balcone della scuola militare si vedevano dei curiosi, mentre i due padiglioni fuori dal recinto, le due tribune che vi stavano dentro e la terza, posta di fronte alla tribuna reale, erano stipate di una folla ben vestita che dava a vedere, nel modo di comportarsi, un certo rispetto per quello svago ancora nuovo. Grosse nuvole intanto erano comparse di fronte a sfiorare con le loro volute le cime degli olmi. Rosanette aveva paura della pioggia. «Son provvisto di ombrelli», disse Federico, «e di tutto quello che occorre per distrarsi», e sollevò il coperchio del bagagliaio dove, dentro un paniere, c'era una quantità di provviste. «Bravo! Siamo fatti per capirci noi!» «E ci capiremo sempre meglio, non è vero?» «È possibile», disse la ragazza diventando rossa. I fantini in giubba di seta stavano cercando di mettere su una sola linea i loro cavalli, trattenendoli a tutte braccia. Poi qualcuno abbassò una bandierina rossa ed ecco che tutti e cinque, curvi sulle criniere, erano partiti. Da prima rimasero serrati in una sola massa, ma questa ben presto s'allungò e si divise. A metà del primo giro, quello con la giubba gialla stava per cadere. Per parecchio vi fu incertezza tra Philly e TB. Poi spuntò in testa Tom Puss, ma Club Stick, in coda dalla partenza, li rimontò e tagliò per primo il traguardo con due lunghezze su Sir Charles. Era una sorpresa. Tutti gridavano. L'assito delle tribune vibrava sotto il pestar dei piedi. «Com'è divertente!» disse la marescialla. «Ti amo, chérie!» Federico non ebbe più dubbi circa la sua felicità. Quest'ultima uscita della marescialla ne era la conferma. 100 passi lontano, in un calessino, apparve una signora. Un po' si sporgeva fuori dalla portiera e un po' tornava ad appartarsi, con moto brusco, all'interno della vettura. Dopo qualche tempo che si ripeteva questa manovra, Federico fu colto da un sospetto. Che si trattasse di Madame Arnoux. Ma no, era impossibile. Perché mai avrebbe dovuto essere lì? Col pretesto di fare due passi, scese di carrozza. «Non è davvero galante!» osservò Rosanette. Senza darle retta, s'allontanò. Il calessino invertì il senso di marcia e si mise al trotto. Nello stesso istante, Federico fu accalappiato da Sisi. «Buongiorno, carissimo, come va? I sonnè là in fondo, ma mi stia a sentire, che diamine!» Federico cercava di svignarsela per raggiungere il calessino. La marescialla gli ingiungeva accenni di tornare da lei. Sisi la vide e a tutti i costi volle andare a salutarla. Thank you. Alcuni gentiluomini venuti alle corse riconobbero Rosanette e la salutarono da lontano. Rispondendo, lei sussurrava a Federico i loro nomi. Erano tutti conti, visconti, duchi e marchesi. E Federico cominciava a ringalluzzirsi, dato che tutti gli sguardi esprimevano un certo rispetto per la sua buona sorte. Mentre Rosanette mangiava con ostentata ghiottoneria una fetta di patè, Federico, per obbedienza, l'imitava, stringendo una bottiglia di vino tra le ginocchia. Il calessino riapparve. Era proprio Madame Arnoux, il cui viso si fece straordinariamente pallido. «Dammi un po' di champagne!» disse Rosanette, e alzando il più in alto possibile il suo bicchiere colmo, gridò: «Ehi, voi, signore per bene, mogli dei miei protettori, alla vostra salute!» Intorno scoppiarono risate e il calessino scomparve. Federico, indispettito, la tirava per la veste, ma Sisì, con accresciuta disinvoltura, invitò Rosanette a cena per quella sera. «Impossibile», rispose la marescialla. «Vado con lui al Café Anglais». Federico rimase zitto, facendo finta di niente, e Sisì si ritirò con aria di disappunto. Mentre ancora le stava parlando, in piedi contro la portiera di destra, da sinistra era sopraggiunto Yssonet, il quale, cogliendo a volo l'accenno al Café Anglais, «graziosissimo locale, se ci andassimo a fare uno spuntino!» «Certo, come vuoi», disse Federico. Afflosciato in un angolo della carrozza, guardava sparire all'orizzonte il calessino, sentendo che era successo qualcosa di irreparabile, che il suo grande amore era perduto, mentre l'altro, l'amore facile e spensierato, era lì, a portata di mano. Ma lui era stanco, in preda a desideri contraddittori, non sapeva neanche più quel che volesse. Provava un'immensa tristezza e aveva voglia di morire. Proprio in quel momento passò davanti a loro, con bagliori d'ottone d'acciaio, uno splendido landò trascinato da 4 cavalli. La signora D'Ambreuse era seduta accanto al marito e sul sedile di fronte c'era Martinon. Tutte e tre avevano delle facce sbalordite. «M'hanno riconosciuto», si disse Federico. Rosanette volle fermarsi per vedere meglio la sfilata. Madame Arnoux poteva ricomparire. Federico gridò al postiglione: «Fila, fila, coraggio!» Alla porta del Café Anglais lasciarono libera la carrozza. Mentre lui pagava il postiglione, Rosanette era andata avanti. La trovò sulle scale che parlava con un signore. Federico la prese per il braccio, ma a metà del corridoio un secondo signore l'aveva fermata. «Vai pure avanti», lei disse, «sono subito da te». Federico entrò da solo nel salottino. Il profumo e la frescura distesero i suoi nervi. S'abbandonò sul divano rosso, sotto la specchiera. La marescialla lo raggiunse e, baciandolo sulla fronte, «Abbiamo i dispiaceri, povero Mimù!» «Forse», rispose Federico. «Non sei il solo, va là!» Il che voleva dire: «Dimentichiamoli insieme i nostri dispiaceri in una sola felicità!» Poi si mise un petalo di fiore tra le labbra e glielo diede da beccare. Quel gesto così grazioso e lascivo, mansueto quasi, intenerì Federico. «Perché mi fai soffrire?» le disse, pensando a Madame Arnoux. «Soffrire? Io?» E in piedi, davanti a lui, lo guardava stringendo le ciglia, le due mani incrociate sulle spalle. Tutta la virtù, tutto il rancore di Federico sprofondarono in una mollezza senza fine. Rispose: «Sì, perché non mi vuoi bene?» E l'attirava intanto sulle sue ginocchia. Lei lo lasciava fare. Le circondò la vita con le braccia. Il crepitio della sua veste di seta lo faceva impazzire. «Dove si sono cacciati?» disse la voce di Yssonet nel corridoio. La marescialla s'alzò bruscamente e corse nell'angolo opposto del salottino, le spalle girate alla porta. Ordinò delle ostriche e si misero a tavola. Thank you. Il sonné fu pochissimo divertente. A furia di scrivere tutti i giorni su ogni genere d'argomenti, di leggere una quantità di giornali, di ascoltare continuamente discussioni e di emettere continuamente paradossi per far colpo su qualcuno, aveva finito col perdere l'esatta nozione delle cose, accecandosi da solo con i suoi poveri petardi. Quelle idiozie esasperavano Federico. In un gesto di impazienza colpì inavvertitamente con la scarpa sotto il tavolo uno dei due cagnolini. Tutti e due si misero ad abbaiare in un modo insopportabile. «Dovresti mandarli a casa!» disse bruscamente. Rosanette non si fidava di nessuno. A Federico venne l'idea di rivolgersi allo scrittorello. «Andiamo, Isonè! Sia gentile, si sacrifichi!» «Oh, sì, per piacere! Sarebbe tanto caro!» Isonè ci andò senza farsi pregare. Entrò un cameriere. «Qualcuno chiede della signora?» «Come ancora?» disse Federico. «Beh, dovrò ben vedere chi è, non ti pare?» rispose Rosanette. Era assetato di lei, ne aveva bisogno. Quella nuova scomparsa gli parve un po' troppo, quasi una villania. Ma che cosa voleva, insomma? Non le bastava d'aver insultato Madame Arnoux. Quanto a quella, del resto, peggio per lei. Le donne li odiava tutte ormai e si sentiva la gola stretta, misconosciuto com'era nell'amore e deluso nel desiderio. La marescialla fu di ritorno e, mostrandogli Sisi, «Ho invitato il visconte! Ho fatto bene, vero?» «Ma certo, come no!» Con un sorriso da suppliziato, Federico fece cenno al gentiluomo di sedersi. Poi, con voce calma, lei chiese di chi fosse quel gran laddò con livrea marrone. «Della contessa d'Ambreuse», rispose Sisi. «Sono molto ricchi, vero?» «Oh sì, molto ricchi, anche se la signora, che nasce semplicemente Boutron ed è la figlia di un prefetto, ha un patrimonio assai modesto. Il marito, al contrario, avrebbe ereditato parecchie fortune. Sisi si mise ad enumerarle. Frequentando i d'Ambreuse, conosceva le loro faccende. Federico, tanto per fargli dispetto, s'ostinava a contraddirlo. Sostenne che la signora d'Ambreuse si chiamava De Boutron. Assicurò che era nobile». «Che importanza ha? Vorrei averlo io, il suo equipaggio», disse la marescialla, abbandonandosi sulla poltrona. E la manica della veste, scivolandole un poco, lasciò vedere sul suo polso sinistro un braccialetto con tre opali. Federico se ne accorse. «Oh, bella, ma non sono...» Si guardarono tutti e tre e arrossirono. La porta fu dischiusa con discrezione. Comparve il bordo di un cappello, poi il profilo di Sonné. «Scusate il disturbo, piccioncini!» Ma si fermò di botto, sbalordito dalla presenza di Sisi e dalla sostituzione della sua persona con quella di Sisi. La marescialla prese il cappellino dall'attaccapanni e Federico si precipitò sul campanello. Gridò da lontano al cameriere: «Una carrozza!» «C'è la mia», disse il visconte. «Ma signore, in verità, signore!» E si guardarono nelle pupille, tutti e due pallidissimi e con le mani che gli tremavano. A un bel momento la marescialla prese il braccio di Sisi e, indicando lo scrittorello accampato davanti alla tovaglia, «Non lo perda d'occhio, si sta strozzando! Non vorrei che il troppo amore per i miei cagnetti lo portasse alla tomba!» La porta si richiuse. «Ma allora?» disse Isonè. «Allora come?» «Io credevo... Credevi che cosa?» «Ma tu non avevi...» e completò la frase con un gesto. «Ma no, nemmeno per idea!» Il sonné lasciò perdere. Thank you. Anna Bonaiuto ha letto L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it